vai e richiedi fino a dove lui ha visto che è arrivata l'acqua. Uh-huh. E se ci sono delle foto, si abbia delle foto, e la gente ha un sacco di registri di questo, no? Sì, sì, sì. E aggiungevamo questo.